La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non bloccare un processo contro il Vaticano. Il Vaticano era arrivato fino alla Corte Suprema per cercare di bloccare una causa in cui la Chiesa Cattolica Romana era accusata di aver trasferito di parrocchia in parrocchia il sacerdote Andrew Ronan, un sacerdote irlandese, nonostante i ripetuti casi di pedofilia segnalati a suo carico. Ronan fu trasferito con l'approvazione dell'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Joseph Ratzinger, e dunque diventava questo un caso di un certo interesse, certamente delicato. Qual è l'aspetto interessante? Che dei 9 giudici, 6 sono cattolici, quindi non si può dire che ci siano, diciamo, delle prevenzioni, e sono stati tra l'altro proprio in gran parte questi giudici cattolici della Corte Suprema ad aver respinto il ricorso del Vaticano. A questo punto si andrà avanti con questo processo, e in tutto questo c'è una figura chiave con cui Daniela Roveda, che si è occupata appunto ieri di questa vicenda, ha parlato. Buongiorno Daniela. Ciao Mario. Raccontaci con chi hai parlato ieri. Ieri ho parlato con l'avvocato Jeff Anderson, legale dell'individuo anonimo che ha fatto causa contro il Vaticano, e che è un personaggio straordinario, forse il responsabile di avere aperto tutte le porte all'ondata di cause contro i preti pedofili negli Stati Uniti. Anderson per la prima volta fece causa a nome di un cliente nel 1983 contro un prete del Minnesota, e mi ha raccontato che la sua crociata iniziò all'epoca quando si accorse che il vescovo della diocesi del Minnesota aveva commesso spergiuro cercando di difendere questo prete colpevole di avere molestato bambini per 25 anni nella sua parrocchia. Anderson mi ha detto di essere estatico per la sentenza della Corte Suprema ed è sicuro che giustizia prevarrà finalmente nei tribunali americani.